Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora, come già vi ricordavano i nostri GR, inizia parecchio male la settimana per le borse. Non sappiamo se sia la fine di quello che a questo punto verrebbe chiamato come un rimbalzo tecnico e quindi la settimana scorsa e la settimana precedente, o invece se sia eccezionale il calo di oggi, visto che nella nottata, quando era già mezzanotte in Italia, si è saputo delle dimissioni del numero uno di General Motors e della bocciatura di fatto da parte di Barack Obama del piano di salvataggio auto in America, soprattutto per quello che riguarda Chrysler e General Motors, i due gruppi che ne avevano beneficiato fino ad adesso. Fatto sta che il MIBTL adesso perde il 5%, l'S&P MIB il 6,3%, Parigi meno 4, Francoforte meno 4,80, Londra tra le migliori, si fa per dire, meno 2,80%, Dow Jones meno 3,61%, Nasdaq meno 3,80%. Questa mattina il via libera è là alle vendite, l'aveva dato l'Asia con il Giappone che è calato del 4,5%, non deve sorprendere che l'Italia perda un po' di più, diciamo sull'S&P MIB un punto percentuale in più rispetto alle altre borse europee, eravamo anche cresciuti un po' di più in queste ultime sedute. E va detto che se il calo su Fiat è pesantissimo, meno 8,6%, che riporta il titolo sotto i 5 euro per azione a 4,80 euro, è ancora più pesante per il Banco Popolare, meno 13,3, che torna a 3 euro per azione, Unicredit meno 12% e scende a 1,15 euro per azione, Intesa San Paolo meno 10,3% e scende sotto i 2 euro per azione, 1,95 euro, Monte dei Paschi pesante anch'essa, scivola sotto l'euro per azione, perde l'8,8% a 99 centesimi di euro. Di Fiat abbiamo detto, molto male anche Pirelli, meno 8%, Generali meno 7,5%, Unipol meno 7,4, Alleanza meno 7 come Mediobanca, Ubibanca meno 5,92%, Saipem meno 5,87%, Popolare di Milano meno 5,81%, ancora Atlantia meno 5,76%, Finmeccanica meno 5,5%, Lecir meno 5%, il 4,90% lo perde Tenaris, ma anche Mediolanum, il 4,80% lo perde Prismian, in 4,5% lo perde Eni, ci fermiamo col 4%, Lottomatica meno 4,2%, ST Microelectronics meno 4,1%, come Impregilo e A2A e Autogrill. Di positivo non c'è niente, il titolo che perde di meno è Snam, meno 0,40%, assieme a Parmalat e a Bulgari. Telecom Italia non perde tanto, perde l'1,3%. Difficile quindi la giornata in borsa, parleremo chiaramente in apertura della vicenda auto americana e poi avremo un'intervista che avevo già promesso con un gruppo che riesce comunque, da poco sbarcato nell'S&P MIB, ma riesce ad avere contratti anche a livello internazionale, ed è Ansaldo STS, che anche oggi tra l'altro è uno di quelli che perdono meno 1,6%, autore della segnaletica per esempio sull'alta velocità italiana, ma non solo. E parleremo chiaramente anche dei temi legati ai mercati. 349-238-6666, dicevo, per i vostri sms, le notizie in breve. Al di là delle borse, il petrolio ha aperto in netto calo, come spesso fa quando le borse vanno male, è sceso a $50 al barile. E anche l'Euribor per fortuna è sceso all'1,52%, pesanti dicevamo sia questa mattina le borse asiatiche che poi in giornata le borse europee. Renault, per dare l'esempio di quello, citare quello che capita anche nelle altre borse europee, Peugeot è arrivato a perdere il 7, Daimler Chrysler il 7,3%, BMW il 7,2%, perdite che sono anche aumentate, e Renault è arrivato a perdere oltre l'8%. Nel frattempo si è saputo che Barclays Bank è stata sanzionata dall'antitrust per 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette in materia di mutui. Le condotte contestate e sanzionate dalla nostra autorità riguardano in particolare gli ostacoli o i costi per la portabilità attiva, ostacoli o costi per la portabilità passiva e assistenza alla clientela attraverso centri di assistenza che avevano una tariffa elevata quanto a scatto telefonico. Nell'Unione Europea a 16 vi è stato un calo record nel mese di marzo quanto a fiducia delle imprese e dei consumatori. La fiducia delle imprese e dei consumatori è precipitata al livello più basso dal gennaio del 1985. In particolar modo è calata particolarmente in Italia a marzo, 4,5 punti, un calo più contenuto in Francia e in Polonia, 1 punto percentuale. No, rido perché alcuni dicono la sento molto rilassata per via del weekend a Taormina. No, in realtà è proprio il freddo di Taormina che mi ha fatto praticamente perdere la voce, ma non importa, ce la faremo anche oggi, figurarsi. La Banca Centrale Europea, Trichet, dice la ripresa arriverà nel 2010, ma le previsioni sono ancora incerte, si mettono le mani avanti di nuovo. Sarà così per i prossimi mesi, meglio abituarsi. Mentre il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, oggi ha detto: attenzione, nel 2009 i paesi dell'OCSE potrebbero perdere il 4,3% quanto a calo del PIL. Lo ha detto oggi intervenendo al G8 sul lavoro in corso a Roma. Il dato sarà comunque pubblicato sulle previsioni che saranno diffuse domani. Sono previsioni più pessimistiche di qualche settimana fa, ha detto Gurria, e ha sottolineato che l'economia nel 2010 sarà prevalentemente piatta, come se non bastasse. Infatti si aggiudica il nostro animale preferito in questo periodo, anzi il nostro animale preferito sarebbe il gallo, ma quello che usiamo più spesso è un altro. Se lo giudica Gurria oggi perché ha anche detto che nei paesi OCSE la disoccupazione dovrebbe avvicinarsi al 10% nel 2010, con una perdita di 25 milioni di posti di lavoro. E allora questa bella iniezione di ottimismo di Gurria, assieme a una borsa che sta perdendo adesso il 6% sull'S&P MIB, fanno tornare in auge dopo qualche settimana di latitanza il nostro animale preferito. Comunque, contrario alle previsioni, senza nessuna ironia, alle previsioni del segretario generale dell'OCSE, il nostro ministro del lavoro Maurizio Sacconi, che coordina il G8 sul lavoro che è in corso a Roma, ha detto: ma insomma, nessun organismo internazionale ha saputo prevenire, prevedere o provvedere alla grande crisi. E quindi, insomma, visto che non ci hanno azzeccato prima, il messaggio un po' non penso che ci potrebbero azzeccare adesso. Sentiamo. Ma io ho dovuto dire a tutte le organizzazioni internazionali che purtroppo non hanno saputo né provvedere alla grande crisi, ma soprattutto ci hanno detto in passato tanti numeri che poi venivano facilmente corretti, ma non ci hanno detto il grande numero di questa crisi globale. Chiedo loro pertanto un po' di maggiore cautela, ma non per nascondere la realtà, ma per non evocare il peggio nel momento in cui siamo tutti impegnati a ricostruire il circolo della fiducia che si è spezzato a partire dai mercati finanziari, ma raggiungendo poi i consumatori, i risparmiatori e i lavoratori. Così il ministro Sacconi, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta a margine appunto del vertice del G8 sul lavoro. E sempre nell'intervista con il nostro Vincenzo Miglietta, Sacconi ha anche tracciato un primo bilancio di questo vertice. Siamo molto soddisfatti non solo per la partecipazione di tutti i paesi e delle organizzazioni internazionali invitate, ma soprattutto per il fatto che le conclusioni forniscono importanti indicazioni sui modi di governare più efficacemente la crisi, integrando la capacità del Fondo Monetario, che deve essere rafforzata, con quella che deve essere rivolta a monitorare la coesione sociale perché c'è uno stretto rapporto di essa con la stabilità economica e finanziaria, e poi l'obiettivo di coordinare di più le politiche sociali per dire alle persone che non solo non ci dimentichiamo di loro, preoccupati come siamo dai banchieri e dalle banche, ma che soprattutto il fine ultimo di ogni nostra azione sono le persone e il loro benessere. Così il ministro Sacconi, il vertice ufficialmente si concluderà domani. Sempre però in tema di occupazione e in generale effetto, l'impatto dell'economia, oggi la presidente Confindustria Marcegaglia, a margine di un incontro a Modena, ha detto che si attende dall'incontro del G20 che arriverà in fine settimana a Londra. Le imprese si attendono, poche decisioni ma concrete, e soprattutto un limite all'eccesso di regolazione che porterebbe a un restringimento del credito. Poco fa però sempre la Marcegaglia ha detto che il tasso interbancario è tornato a livelli abbastanza fisiologici, cioè l'Euribor, ma lo spread, ossia quello che poi le banche praticano alla clientela, l'Euribor è quello che costa le banche, c'è uno spread, una differenza, che è quello che fanno pagare a noi o alle imprese. Lo spread, ha detto la Marcegaglia, resta ancora troppo alto. E infine ha aggiunto la presidente Confindustria che per uscire dalla crisi nei prossimi 2-3 anni le piccole e medie imprese italiane dovranno essere pronte a fare acquisizioni e fusioni, anche realizzare una maggiore efficienza e una migliore patrimonializzazione. Critico verso il governo invece il leader della CGIL Guglielmo Epifani, che ha detto in sostanza in corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Roma: il governo sta affrontando la crisi col freno a mano tirato. Il nostro paese, che ha un debito pubblico molto alto e quindi ha dei margini limitati di manovra, ha però sostanzialmente investito per affrontare la crisi non più di 16 miliardi di euro, dei quali 12 destinati a quell'operazione di prestito oneroso nei confronti delle banche. Quindi per tutto il resto, rilancio della domanda, rilancio dei consumi, intervento sulle fasce che hanno più socialmente bisogno, si risolve in poco più di 3 miliardi e 8, 3 miliardi e 9. Una cifra assolutamente non utile. Così Guglielmo Epifani, il quale ha anche detto e annunciato che più di 3 milioni e 600 mila lavoratori, pensionati e precari hanno partecipato al referendum sull'accordo separato, quello che la CGIL non ha firmato per rimodulare, riformare i modelli contrattuali dando più spazio al contratto aziendale rispetto a quello nazionale, e ha detto che no, sono stati il 96,2%. Allora, primo tema, il terremoto che ha scosso le borse oggi si chiama industria dell'auto americano. Devo dire che alcuni di voi già ci chiedono del perché Seat Pagine Gialle oggi guadagni il 151%, avete capito bene, 151% a 61 centesimi di euro per azione, ne parleremo chiaramente. Devo dire che anche le Bastoggi vanno parecchio bene, più 18%, Beghelli più 16%, e poi qualche altra società più sottile, male invece Tiscali. Ma insomma, la notizia di oggi di nuovo riguarda i grandi titoli, e quindi a partire dai gruppi auto Fiat sta perdendo l'8,7%, ma vi faccio notare che i primi tre titoli per flessione sono i primi tre gruppi bancari, ossia non in quest'ordine, ma Banco Popolare meno 12,4%, Unicredit meno 12%, Intesa meno 9,8%, e anche Monte dei Paschi non ride visto che perde l'8,2%. Comunque, poco fa le dichiarazioni di Barack Obama, una leggera correzione, ma ormai la frittata è stata già fatta. Eh sì, perché adesso Obama dice: non lasciamo l'industria svanire, è un pilastro per la nostra economia, è un settore come nessun altro emblema dello spirito americano, e quindi da un lato corregge leggermente il tiro ma conferma che non si può continuare in questo modo. Lo ha detto qualche istante fa, corregge leggermente il tiro, perché poi Barack Obama è tornato a dire che La crisi del settore automobilistico è frutto degli errori dei manager e anche degli errori di Washington, quindi degli errori della Casa Bianca. Immagino si riferisce anche alla, si riferisse anche alla gestione Bush. E poi ha toccato anche il tema Fiat, perché ha detto Chrysler ha bisogno di un partner. E praticamente ha 30 giorni di tempo per finalizzare un accordo con la Fiat. Se saranno in grado di raggiungere un accordo solido per proteggere i consumatori americani, considereremo le concessioni di 6 miliardi di dollari. Ma se un accordo non sarà raggiunto e in assenza di un'altra soluzione, di un'altra partnership, non saremo in grado di dare ulteriori soldi a Chrysler. E quindi Chrysler viene invitata o a fare le nozze con Fiat o a fare le nozze con qualcun altro, ma a sposarsi, se no ciccia, nel senso che non arrivano 6 miliardi. Ancora su General Motors, poco fa Barack Obama ha detto: la mia amministrazione offrirà a General Motors 60 giorni di tempo per mettere a punto un nuovo piano di taglio dei costi e in quest'arco di tempo assicurerà il capitale necessario per mantenere operativa la società. Queste le dichiarazioni di Barack Obama ora, qualche minuto fa. Che cosa è successo una notte? Lo avete letto su molti giornali. Insomma, la task force designata dall'amministrazione Obama per valutare i piani di ristrutturazione di General Motors e Chrysler, infatti GM ha già ottenuto quasi 14 miliardi, Chrysler ne ha già ottenuti 4, solo che GM ne ha chiesti altri 16 e mezzo e Chrysler ne ha chiesti altri 6, 5. Barack Obama era sempre stato molto deciso su questo: i soldi si danno se tu ristrutturi, se non c'è il rischio fra un anno o due anni di ritrovarsi con gli stessi problemi. Ebbene, nella notte si è saputo che la task force che deve valutare questi piani di ristrutturazione ha bocciato i progetti dei due gruppi, perché dice tanto non garantirebbero la sopravvivenza né di General Motors né di Chrysler. La conseguenza è stata subito la testa che è rotolata, quella di Rick Wagoner, numero uno di General Motors, su richiesta proprio dell'amministrazione Obama. Resta anche straballante la testa di Robert Nardelli sul collo del, metaforicamente, chiaramente, del numero uno di Chrysler, ma nel frattempo anche in Europa c'è stato un cambio di poltrone. Lo avete letto, il gruppo Peugeot Citroën ha licenziato il numero uno Christian Streiff. Vi ricordo che Citroën Peugeot dovrà tagliare 11.000 dipendenti nel mondo e nel 2008 ha perso 343 milioni di euro. Allora, intanto ringrazio per essere in collegamento con noi Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Già oggi ospite nel nostro GR Extra Large, ma gli sviluppi continuano nel corso della giornata e i titoli vanno sempre peggio per quello che riguarda il settore auto. Vi farei ascoltare, visto che non abbiamo ancora Barack Obama che ha appena parlato, lo stiamo traducendo banalmente, che cosa aveva chiesto questa notte, poche ore prima dell'annuncio delle dimissioni di Rick Wagoner, in un'intervista alla CBS, Barack Obama. Non ci sono ancora arrivati. Non sono ancora arrivati a nulla di concreto. Sforzi importanti sono stati fatti per fronteggiare problemi presenti nell'industria dell'auto da moltissimo tempo e anche per contrastare la crisi attuale. Le vendite di auto nuove sono calate significativamente da 14 a 9 milioni. Tutte le case automobilistiche hanno problemi, anche Toyota e altri gruppi molto importanti. Stiamo cercando di far capire che vogliamo un'industria automobilistica che abbia successo, che vada bene, e pensiamo di poter arrivare a questo obiettivo. Ma è necessario che l'industria sia ristrutturata molto razionalmente per fare fronte alla tempesta in corso ed emergere più snella e agile, più competitiva di ora. E questo significa tutta una serie di sacrifici per tutte le parti coinvolte: i manager, la forza lavoro, gli azionisti, i creditori, i fornitori e i concessionari. Tutti devono riunirsi intorno a un tavolo e riconoscere che è importante prendere serie misure di ristrutturazione adesso per arrivare a un futuro luminoso. Ma finora non è stato fatto abbastanza. E adesso, un istante fa, un flash di agenzia. Andrea Malan, lo leggo assieme a te. General Motors e Chrysler hanno bisogno di un nuovo inizio e questo potrebbe significare il ricorso al codice della bancarotta come meccanismo per assicurare una ristrutturazione più forte, lo ha detto il presidente americano Barack Obama, quindi non esclude la bancarotta per GM e Chrysler, sottolineando di riferirsi a un'ipotesi di bancarotta assistita dal governo e non un processo in cui la società viene scomposta, venduta con il classico spezzatino. Però un fallimento pilotato, Chapter 11, amministrazione controllata diremmo noi per alcuni versi. Allora Andrea, sì. Cioè, le domande che arrivano dagli ascoltatori sono di due generi, al 349-238-6666. Da un lato molti dicono, vabbè, ma Barack Obama questa cosa l'ha sempre detta, è serio che lui non dia più soldi a gruppi che non vogliono ristrutturarsi e fa bene piuttosto andare avanti con la linea del rigore. Dall'altra parte molti non capiscono perché la borsa vada così male su questi titoli, visto che sono saltate le teste, perlomeno una, Rick Wagner, ma anche in Francia quella di Peugeot Citroën, di gente che quanto insomma a capacità non è che avesse brillato visti i risultati. Quindi terrei le risposte su questo doppio binario. Iniziamo dalla prima: è coerente, fa bene, magari la borsa soffrirà un po' nel breve termine, ma almeno lui tiene la barra dritta, o cambi registro, o cambi passo, o se no i soldi del contribuente americano non te li diamo perché tu li bruci nell'arco di qualche anno. Andrea. Beh, sicuramente è da notare la differenza, la grande differenza di atteggiamento tra il governo americano e quello e quelli europei. Il governo americano ha intenzione di dare fondi purché le aziende GM Chrysler abbiano un piano sufficientemente duro e quindi si mettano da sole con dei tagli ai salari ma anche ai debiti e alle obbligazioni nei confronti in generale di fornitori eccetera, si mettano da sole in condizioni di competere. In Europa finora chi ha dato fondi all'auto per superare questa crisi lo ha fatto con la premessa contraria: ti do dei soldi perché tu non tagli posti di lavoro, perché in qualche modo tu non ti ristrutturi, cosa che per esempio è stato il caso francese con Sarkozy e con Peugeot e Renault, tanto che dietro alla caduta del numero uno di Peugeot Strive c'è probabilmente anche la sua opposizione a questa linea del presidente francese. Certamente il governo americano è finora molto coerente e ha fatto comunque diciamo anche una differenza tra GM e Chrysler, cioè GM a mio parere, ma a parere di molti osservatori, è comunque troppo grande per fallire, nel senso che un eventuale fallimento non pilotato ma definitivo di GM è stato evocato sì da Obama come una minaccia, ovviamente per fare pressione sulle parti in causa, ma sarebbe veramente troppo grave, anche perché essendo ancora GM di gran lunga il gruppo maggiore negli Stati Uniti, porterebbe con estrema probabilità dietro di sé immediatamente un fallimento di gran parte dei fornitori e quindi in qualche modo un rischio di tracollo per l'intero sistema. Cioè, per fare un paragone che è stato usato molto nei mesi scorsi con le banche, il fallimento di GM sarebbe un rischio sistemico troppo grosso. Per Chrysler invece non è così. Obama ha detto chiaramente: Chrysler da sola non sta in piedi, se troviamo un partner che è Fiat, bene, gli diamo 30 giorni e siamo pronti a mettere sul piatto 6 miliardi di dollari. Se però Chrysler non trova un accordo con Fiat, e sottolineiamo non trova un accordo con Fiat che ci vada bene a noi governo, a questo punto la possiamo lasciar fallire. Il rischio in questo caso è rilevante, non così sistemico. E infatti l'ha ribadito anche adesso Obama, appunto, se fa l'accordo con Fiat, un accordo ragionevole, otterrà 6 miliardi Chrysler. Per cui da quello che ho capito, Andrea, tu ritieni che casomai nel caso di fallimento pilotato dovrebbe essere fatta fallire in maniera pilotata solo General Motors? Diciamo che per GM il dubbio è se queste nuove mosse di Obama saranno sufficienti a convincere i sindacati da un lato e soprattutto gli obbligazionisti dall'altro a fare le concessioni necessarie a far tornare GM un'azienda in grado di competere di per sé. Altrimenti, ha detto Barack Obama, noi potremmo mettere in atto una appunto amministrazione controllata, un fallimento pilotato, e l'importante è che sia molto rapido e in cui il governo si è già detto pronto a fornire lui i finanziamenti. Sappiamo che negli Stati Uniti i creditori che accedono al cosiddetto Chapter 11 sono privilegiati rispetto agli altri ed è questo il grande vantaggio di una procedura. In questo caso però, data la crisi finanziaria, siccome ci sono dei dubbi sul fatto che le banche sarebbero disposte a entrare, il governo ha detto metteremo noi i soldi per questo fallimento pilotato purché sia brevissimo e permetta di spazzare via eventuali resistenze da parte delle controparti. Questo per GM. Per Chrysler invece, appunto, se non verrà trovato un accordo con Fiat, è probabile che, è probabile o comunque molto possibile che si arrivi a un fallimento vero e proprio, dove, attenzione, in questo caso tu hai evocato prima un possibile spezzatino, sicuramente comunque all'interno di Chrysler ci sono delle parti di notevole valore, pensiamo solo al marchio Jeep, che sia pure un pochettino svalutato dal fatto che i SUV non sono più così di moda come una volta, però è pur sempre un marchio molto prestigioso, conosciuto in tutto il mondo, che probabilmente troverebbe compratori anche da solo. Ecco, chi sicuramente invece con questa nuova crisi, con questa crisi non avrà più così spazio è l'Hummer. Qualcuno se lo ricorda, l'Hummer è quel enorme Jeep che ha avuto, è nata per usi militari, che ogni tanto vedevamo girare e parcheggiare molto comodamente anche nelle città italiane, che sono fatte apposta per soprattutto nei centri storici per questo tipo di veicoli. È ormai il simbolo di una filosofia automobilistica al capolinea. Per domani è atteso l'annuncio da parte della General Motors che insomma chiuderà la produzione. Devo dire che sono dispiaciuto? No, così faccio un disclaimer chiaro, ma non perché ce l'abbia con chi si compra l'Hummer, ma non ne capisco l'utilità sul San Pietrini italiani. Comunque, minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo che qualcuno insomma difende invece l'Hummer. Vabbè, sì, i problemi sono questi. È proprio l'Hummer la cosa che ci preoccupa di più. Siete populisti e qualunquisti nel criticare l'Hummer. Ma no, guardi, al massimo mi dispiace per i lavoratori della General Motors, per i proprietari dell'Hummer proprio non riesco a provare pena. Sarò populista e qualunquista, ma chi se ne frega. Andrea Malan, andiamo sulle cose serie. Perché la borsa penalizza, ha chiuso ai minimi meno 6,6%, perché penalizza le auto Fiat meno 9,3%, quando Fiat dovrebbe essere quella che potrebbe di fatto comprarsi, anche se non si può dire così, Chrysler? Perché se saltano i manager la borsa non premia queste decisioni? A mio avviso la ragione principale è da cercare nell'ultimo mese. Nell'ultimo mese i titoli dell'auto hanno tutti recuperato parecchio terreno rispetto ai minimi. Basta pensare che la stessa General Motors è salita da $1.06 di minimo a $3.02, quindi è raddoppiata di valore in circa un mese. È chiaro che questo comportava per gli investitori in qualche modo un dimenticarsi di qual è la realtà per quanto riguarda GM. Da questo punto di vista, quindi, l'intervento di Obama ha rappresentato quello che gli inglesi chiamano un reality check, cioè un richiamo alla realtà che è dura e prevede, come ha detto il Presidente oggi, il rischio concreto di un fallimento nel qual caso, come sappiamo, gli azionisti perderebbero tutto, il valore dell'azione scenderebbe a zero. Per quanto riguarda i titoli europei, diciamo che è un effetto legato comunque al ricordare che la crisi c'è, la crisi dell'auto c'è. Ricordiamo che per esempio le previsioni sul mercato americano anche per il mese di marzo sono molto brutte. In Europa fa un po' meglio perché in alcuni paesi come l'Italia, la Germania sono stati varati gli incentivi che hanno sostenuto e stanno sostenendo le vendite, ma le prospettive di medio periodo rimangono difficili per l'intero settore, quindi è probabile che qualcuno abbia approfittato per portare a casa i guadagni delle settimane precedenti. Ora, io con tutto il rispetto per chi opera in borsa da professionista, però mi deve spiegare qual è il valore aggiunto nel comprare quando tutti comprano e vendere quando tutti vendono sulla base così di... Perché allora non si spiega perché Fiat sia cresciuta così tanto nelle ultime 7-8 sedute. Cioè, voglio dire, non è che in una settimana è cambiato qualcosa, Andrea. Se uno è un serio... ce l'ho con te, ma se uno è un serio analista e un operatore di borsa sa che le difficoltà per il settore auto ci sono e non scompaiono in una settimana e quindi non compra Fiat. Se uno invece crede che Fiat o BMW, quello che volete voi, sia messa meglio di altri competitor, la tiene. Vedere che quando tutti comprano, quando tutti vendono, cioè, dà l'idea più delle pecore, del gregge, che dell'analista e dell'operatore di borsa che guarda i fondamentali di bilancio, i fondamentali macroeconomici, che conosce le soglie tecniche e usa vari algoritmi per capire come andrà il titolo. Diciamo che oggi si può fare tutta più su Fiat un brevissimo ragionamento a parte, cioè là il discorso Chrysler, che si materializzerà se succede nel giro di 30 giorni, è un'opportunità sicuramente molto grande, ma è anche una sfida. È una sfida dal punto di vista manageriale, quindi di tempo, risorse, di management, è anche una sfida nel senso che il governo americano può darsi che per dare via libera all'offerta, all'alleanza, chieda a Torino un impegno un po' maggiore di quello che Fiat è stata disposta a mettere in campo finora. Quindi è forse anche, per quanto riguarda Fiat, questo rischio di un impegno un po' più consistente sul fronte Chrysler che ha fatto in qualche modo tremare alcuni operatori e ha contribuito al ribasso. Allora, due domande rapidissime ancora per te di servizi, soprattutto che ci rivolgono gli ascoltatori. Chi ha obbligazioni in General Motors, a parte il fatto che in questi mesi poteva anche venderle, però vabbè. Ogni tanto anche i risparmiatori dovrebbero essere un po' più accorti, ma chi ha l'obbligazione General Motors cosa rischia? Beh, diciamo che qui il problema è che le offerte che sono state fatte di volta in volta dalla GM ai titolari di obbligazioni non valgono per quelli italiani. Questo era già stato era già emerso all'inizio, diciamo, del procedimento di ristrutturazione, quindi le eventuali offerte di scambio con una parte cash, una parte in nuove azioni, eccetera, non sono destinate agli eventuali detentori italiani di obbligazioni GM, e quindi bisogna vedere poi in sede di ristrutturazione, in sede di possibili chapter 11, come andrà a finire, per vedere cosa succede invece appunto a chi non ha ricevuto questa offerta e che però si ritroverà comunque con in mano un'obbligazione. Seconda domanda, che influenze può avere l'eventuale fallimento pilotato di General Motors su Opel? Su Opel, ecco, il discorso è molto interessante. Qua sappiamo che c'è un tentativo di, come dire, un negoziato per un salvataggio in parallelo, dove la stessa GM ha chiesto fondi al governo tedesco e anche svedese, inglese, eccetera. I tedeschi hanno promesso un sostegno purché i fondi non finiscano negli Stati Uniti. Quindi la cosa in realtà è molto in alto mare, è probabile che si debba aspettare la conclusione del negoziato americano, vedere cosa succede alla casa madre. Poi è probabile altrettanto che Opel in qualche modo riceva fondi dai vari governi, in primis quello tedesco, ma anche qui il governo vorrà porre delle condizioni e quindi si andrà verso una ristrutturazione. Comunque diciamo che su questo punto la situazione è ancora più in alto mare, bisognerà aspettare qualche settimana in più. E tra l'altro non c'è solo la vicenda General Motors, perché oggi anche Ratan Tata, che è presidente del gruppo Tata, colosso indiano dell'automobile, ha annunciato il taglio di 15.000 posti di lavoro nella controllata Jaguar, a meno che il governo britannico non garantisca aiuti. 15.000 dipendenti non è poca cosa, chiede 464 milioni di euro di prestito garantito dal governo britannico alla società Jaguar. Grazie Andrea Malan. Adesso le informazioni perché è in viaggio. Vedo che alcuni dicono: ma la borsa si sa che è fatta così. Allora, se la borsa è fatta così, che una settimana Fiat recupera il 15-20, poi in un giorno perde il 9-35, visto che parlavamo di Fiat, senza che vi sia un motivo esplicito, allora però non lamentatevi quando alcuni ascoltatori dicono che la borsa assomiglia più a Saint Vincent, a Monte Carlo, a Campione, che è un luogo in cui si fanno dei ragionamenti, delle analisi, si guardano i fondamentali e quindi sulla base di questo si tiene una posizione perlomeno per un po' di tempo. Perché delle due, l'una. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, o ciò che ne resta della sua voce, visti i commenti che arrivano via SMS. Allora, chiuso il capitolo auto, di cui abbiamo ampiamente parlato, in attesa di avere nuovi, adesso vi faremo anche ascoltare nella seconda ora alcune dichiarazioni di Barack Obama, le ultime giunte. Parliamo del resto della borsa. Guido Maurino, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Perché al di là di Fiat, Banco Popolare perde il 12,9, Unicredit il 12,6, Intesa 9,6 e ancora Monte dei Paschi il 9,3%, cioè le quattro prime banche del paese sono i quattro titoli che perdono di più oggi. Non producono auto e non mi sembra che siano particolarmente esposti con General Motors. Diciamo che in parte è dovuto al fatto che le banche hanno sono state caratterizzate un po' da prese di beneficio. Dopo la pubblicazione dei conti, che erano stati in molti casi migliori delle attese, le banche avevano guadagnato, soprattutto a partire diciamo dal 9 marzo in poi. Nell'ultima settimana avevano già iniziato le prime prese di beneficio, oggi una giornata anche di forte tensione sui listini, hanno perso molto, hanno perso anche perché nel weekend intanto è arrivato il salvataggio da parte della Banca Centrale Spagnola, del primo istituto spagnolo ad essere salvato, che è una banca non molto conosciuta, che è la Cassa di Risparmio della Castiglia-La Mancia, che comunque è stata travolta da un buco di 3 miliardi di euro. Per tutte queste ragioni, insomma, oggi le banche sono andate molto male. Alcune banche in particolare, come il Banco Popolare, hanno delle loro ragioni specifiche. Sì, sarà anche piccola la Castiglia-La Mancia, ma rappresenta l'1% degli attivi del paese, quindi sì. Un spagnolo su 100. Più che piccola, non molto conosciuta. No, non molto conosciuta, per cui comunque ha chiesto alla Banca di Spagna di dare una garanzia di finanziamento da 9 miliardi. Diciamo che giocando un po' sulla la Castiglia-La Mancia, era più una banca da Don Chisciotte che una cosa seria sta qua, perché 3 miliardi di buco, vabbè, andiamo avanti. E niente, dicevamo del Banco Popolare, che ha delle ragioni sue particolari, come il downgrade da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's e soprattutto anche i conti di Italisa. Italisa ha annunciato i conti nel fine settimana, si tratta di chiudere il 2008 con una perdita di 1 miliardo, e questo si ripercuote gioco forte sul Banco Popolare, che fra l'altro in queste settimane ha anche annunciato l'OPA sulla controllata Italisa. Alcuni ascoltatori ci chiedono del rapporto euro-dollaro, non l'ho dato, avete ragione, è 1,31,45, quindi è indebolito rispetto alla settimana scorsa, comunque sempre sopra quota 1,31. I casi singoli, allora, al di là della Cassa di Risparmio della Castiglia-La Mancia, la prima nel paese che viene nazionalizzata, poi vedremo cosa capiterà il resto, il Banco Popolare. Allora, qui c'è un downgrade di Standard & Poor's e i conti di Italisa, io veramente non capisco. Sarà anche il mal di testa e il mal di gola che oggi mi fa vedere tutto quanto in maniera più confusa, però Italisa ha annunciato 1 miliardo di rosso, lo sapevamo, voglio dire, è stata fatta il delisting, l'operazione di salvataggio, non perché andasse bene. Che cosa? Il titolo, tra l'altro, Banco Popolare ha guadagnato dai minimi, Italisa, l'81%, per cui cioè, io sono realizzi, domani si riparte, insomma, o è Standard & Poor's che improvvisamente ci vede lungo? Diciamo che il Banco Popolare aveva guadagnato molto, ha guadagnato l'81% dallo scorso 9 marzo, per cui come dicevamo in apertura, una parte di realizzi c'è di sicuro e in qualche modo è fisiologico. Che quando le cose vanno male, spesso diciamo gli istituti che devono trovarsi ad affrontare maggiori problemi, e in questo caso sicuramente il Banco Popolare con Italisa dovrà affrontare un problema abbastanza spinoso, finiscono per essere penalizzati. Sì, è sempre un ragionamento all'ammasso, vabbè. No, ma sarà perché per anni in questo programma, in un programma che conducevo prima, che adesso conduce Deborah Rosciani, Salva Danaio, abbiamo avuto gestori che dall'alto dei loro studi ci raccontavano come i fondamentali, le analisi tecniche, fondamentali di bilancio, le settore, analisi, il rating, e poi voglio dire, parte uno, partono tutti, vabbè, ricordo più certi ragazzini che tutti si vestono in un modo, anche gli altri fanno lo stesso, ma dov'è il cervello libero qua? Vabbè, andiamo avanti, dai, che sennò mi deprimo. Unicredito meno 12,6% a 1,14 euro, ti rifaccio lo stesso ragionamento. Sì, io più o meno ti ridò la stessa risposta, certo. Perché non ci sono ragioni particolari, se non appunto un po' di prese di beneficio. Avevamo detto prima il Banco Popolare che aveva guadagnato l'81%, il Unicredit subito dopo i conti aveva guadagnato addirittura il 94% dai minimi, poi in realtà Unicredit ha iniziato prima una sorta di arretramento, e diciamo che dal 23 marzo, una settimana fa, ha già ceduto il 15% di quello che aveva guadagnato. Immagino un ragionamento analogo anche per Intesa, che scende sotto i 2 euro, meno 9,6%. Fiat, abbiamo detto, molto male anche Pirelli, meno 9%. Sì, su Pirelli appesa diciamo Le difficoltà del settore auto, sentivo prima che parlavate di Fiat, in qualche modo le difficoltà del settore auto si ripercuotono anche su Pirelli, in più c'è anche il discorso di Canfin, quindi della società che controlla Pirelli e che si prepara ad un aumento di capitale da 50 milioni di euro, come ha scritto nel fine settimana anche il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, certo. Rapidamente, due titoli, Tiscali, titoli minori, ma insomma Tiscali ha avuto dei conti da profondo rosso, meno 242 milioni di euro, questa è la chiusura del 2008, e perde il 20%. Sul fronte opposto, SET, pagine gialle, più 151%. Allora, iniziamo da Seat Pagine Gialle. Oggi partiva l'aumento di capitale di Seat Pagine Gialle, un aumento particolare perché ha un effetto fortemente dilutivo, visto che insomma ci sono 226 nuove azioni ogni 5 possedute. Questo fa sì in qualche modo che per ragioni tecniche sostanzialmente quello che conta siano i diritti che si acquisiscono più che l'azione di per sé, per cui l'azione di oggi ci segnalavano gli operatori e gli analisti, ha scarso valore in questo momento, questo valore ha poca diciamo importanza, in più probabilmente ci sono ancora degli errori anche tecnici che oggi hanno fatto sì che poi il titolo rimanesse praticamente quasi tutta la giornata sospeso in asta di volatilità, c'erano addirittura degli ordini a 7 euro quando il titolo ha chiuso a 0,61, insomma c'è stato un po' di caos nel primo giorno di aumento di capitale. Va bene, va bene, va bene. Allora, grazie a Guido Marino di Radio Coro di Sole 24 Ore. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Chiarisco per oggi, per l'ultima volta, il ragionamento che abbiamo fatto sulla borsa, e cioè nulla questio se la borsa recupera il 30-40% dai minimi. Quello che troviamo un po' strano è vedere come titoli che hanno guadagnato 30, 40 e anche di più in queste sedute all'improvviso perdono il 12, l'11, il 10. Ora, a meno che non si voglia dire che dobbiamo abituarci a una borsa che fa più 10 e meno 15, beh vabbè, non mi sembra un ragionamento così serio, o se no non si capisce perché premiare le banche per poi andare a vendere a man bassa come oggi, meno 13% quasi, il Banco Popolare, meno 12,6 Unicredito, meno 9,6 Intesa, meno 9,3 Monte dei Paschi, meno 9,3 anche Fiat e Pirelli. Tutto qui, si decidessero gli operatori se diciamo, si è toccata la parte più bassa e quindi si può iniziare a ricomprare a certi prezzi, oppure se per esempio un Incredito è giusto che sia a 1,14 euro, cioè quoti meno dei mezzi propri. Noi non abbiamo nessuna idea in proposito, vorremmo semplicemente un po' di coerenza in chi dà giudizi, viene pagato per fare analisi e soprattutto per investire anche i soldi degli altri. Tutto qui, solo coerenza chiediamo. E allora, avevamo promesso le dichiarazione di Barack Obama rese poco fa, tra l'altro vedo che anche Jean-Claude Trichet è tornato a dire, il Presidente della Banca Centrale Europea, che le previsioni restano incerte nel 2010, lo ringraziamo perché non ce ne eravamo accorti, mentre botta e risposta tra il Segretario Generale dell'Ocse e Angel Gurria, che ha detto oggi a Roma nel corso del forum del G8, del G8 sul lavoro, nel 2009 i paesi OCSE faranno meno 4,3%, c'è il rischio che vi siano 25 milioni di disoccupati nel 2010, e il ministro Sacconi che ha detto vabbè, da operatori che non sono riusciti, da istituti che non sono riusciti a prevedere la crisi nella sua portata, ci aspetteremo un po' più di prudenza nelle analisi anche future. E Barack Obama, frutto la crisi del settore auto, degli errori dei manager e di Washington, ha detto non la lasceremo l'industria svanire, è un pilastro, lavoreremo per un nuovo piano per General Motors, non vuole e non intendiamo guidare General Motors, E non escludiamo la bancarotta sia per GM che per Chrysler, bancarotta pilotata. Ancora su Chrysler ha detto Chrysler ha bisogno di un partner. Se riesce a fare un accordo con Fiat e quindi trovare un partner, o Fiat o un altro, non ha citato Fiat direttamente, bene, potrà ricevere i 6 miliardi di dollari che ha chiesto al governo. Se no, no. I passaggi. The pain being felt in places that rely on our auto industry is not the fault of our workers. It's not the fault of all the families. Rather, it's a failure of leadership from Washington to Detroit that led our auto companies to this point. Il dolore e le sofferenze nelle aree del paese che più poggiano sull'industria dell'auto non è stato causato dai lavoratori o dalle famiglie, ma dal fallimento della leadership dei manager sia a Washington che a Detroit. Limited additional period of time to fundamentally restructure in a way that would justify an investment of additional capital. E oggi annuncio che la mia amministrazione sta offrendo a General Motors e a Chrysler un periodo di tempo limitato per presentare piani di ristrutturazione che giustifichino altri denari, altri soldi dei contribuenti. E poi su General Motors ha fatto grandi sforzi, ma il piano non è abbastanza, non è sufficiente. Come primo passo General Motors ha annunciato le dimissioni di Rick Wagoner. Offriremo a General Motors 60 giorni per mettere a punto un nuovo piano di tagli dei costi e in questo periodo, in questi due mesi, daremo il capitale necessario perché la società resti operativa. Ma voglio essere chiaro, ha aggiunto Barack Obama, il governo non vuole e non ha intenzione di guidare General Motors. Ecco il passaggio su Fiat, adesso citata invece. Questo è l'unico e l'ultima dichiarazione di Barack Obama che vi stiamo trasmettendo, arrivata circa mezz'ora, 40 minuti fa. Riguarda Chrysler, la situazione in cui invece versa Chrysler è molto più densa di sfide. Chrysler ha bisogno di un partner per sopravvivere. Fiat è pronta a trasferire la sua tecnologia a Chrysler. Daremo 30 giorni a Chrysler e a Fiat per superare gli ostacoli e finalizzare l'accordo. In quel periodo daremo aiuti necessari a Chrysler per mantenere la sua attività operativa. E poi ha continuato poco fa Barack Obama, Chrysler e General Motors sono molto diverse, ma entrambe hanno bisogno di un nuovo inizio e questo potrebbe significare il ricorso alla bancarotta come meccanismo per assicurare una ristrutturazione più forte. Mi riferisco a un'ipotesi di bancarotta assistita dal governo. Non sto parlando di una bancarotta che potrebbe vendere le due società a pezzi. Questo Barack Obama di poco fa, infatti era così recente che non è stato possibile fare la traduzione. Allora, come dicevo, continua il nostro viaggio tra le imprese italiane che affrontano la crisi, che riescono a trovare nuovi accordi commerciali e partnership. La scorsa settimana alcuni gruppi hanno debuttato sull'S&P MIB, devo dire che la cosa bene gli ha portato, e tra questi, oltre a Campari e CIR, c'è anche il gruppo Ansaldo STS. Il motivo per cui ne parliamo però è perché sempre la scorsa settimana Ansaldo STS ha firmato il contratto con la Germania, si è aggiudicato infatti un contratto con la Siemens per Ansaldo STS fa segnalamento ferroviario o di metropolitane o comunque di altre velocità, ma tutto quello che è il segnalamento, per un valore di 17 milioni di euro. Visto che la scorsa settimana abbiamo coperto anche il nuovo tratto dell'alta velocità in Milano-Roma in 3 ore, anche questo fatto da Ansaldo STS, e che il gruppo riesce a fornire l'impiantistica di segnalamento per il 56% delle linee ad alta velocità nel mondo, ogni tanto invece che parlare della finanza e di chi si professa esperto in finanza, parliamo di chi fa soldi veri. E allora abbiamo intervistato il numero uno di Ansaldo STS, l'ingegnere Sergio De Luca. Siamo partiti dall'ultimo contratto, quello appunto da 17 milioni firmato la settimana scorsa in Germania. Impianti di segnalamento sono quegli impianti, quei prodotti, quelle tecnologie che consentono ai treni di marciare in sicurezza rispettando lo stato dei segnali, quindi per il grosso pubblico rosso, verde e così via, e di rispettare i limiti di velocità, quindi se su una linea non bisogna superare i 100 km all'ora se è solo il macchinista a decidere, siamo affidati al macchinista, se invece il macchinista è sostituito, supportato dalle nostre tecnologie, la garanzia in sicurezza della marcia dei treni nei limiti prestabiliti è appunto affidato alle nostre tecnologie. Molte volte gli impianti di segnalamento hanno una parte di terra e una parte di bordo. Contratto relativo alla fornitura alla Siemens di apparecchiature da installare su 15 treni alta velocità Velaro, nome commerciale dei treni di ultima generazione della Siemens. Questi treni, per esigenze di circolazione sulla rete ferroviaria tedesca ad alta velocità attrezzata con impianti di segnalamento standard europeo RTMS, per andare a circolare su linee attrezzate con analoghi sistemi di segnalamento in Francia e passando per il Belgio, richiedono una tecnologia di segnalamento che per la verità hanno anche altri costruttori, ma dei quali noi ci riteniamo leader mondiali, sia per la quantità di realizzazioni fatte finora, sia perché in Italia oggi esiste la più consistente applicazione di queste tecnologie, di cui l'alta velocità italiana è l'esempio più rappresentativo. Le linee italiane recenti. Ecco, sì, altre... su questo volevo arrivare, perché siamo partiti dal Freccia Rossa, abbiamo coperto sia la tratta Milano-Bologna quando fu inaugurata, sia appunto la prima parte sperimentale Milano-Roma in 3 ore con il Presidente del Consiglio Berlusconi. Tutti avete letto sui giornali di questo primo battesimo. Voi avete fatto e state facendo tutta la segnaletica, la chiamo così, dell'alta velocità italiana, giusto? Sì, gli impianti di segnalamento dell'alta velocità italiana sono forniti dal consorzio Saturno. All'interno di questo consorzio Saturno, per la parte delle tecnologie di segnalamento, noi abbiamo la maggior parte delle forniture tecnologiche con una quota dei 2/3 sul totale. Quindi a noi è capitato di installare la gran parte degli impianti nelle varie tipologie, ma soprattutto per quelle più avanzate, che sono il sistema di distanziamento. Cioè, quanto distante deve stare un treno dall'altro per essere quanto in sicurezza? Quanto distante deve stare un treno dall'altro e qual è la velocità massima che può mantenere? Quindi, diciamo, ecco, ci spieghi una cosa. Tutto il controllo avviene via radio, cioè via onde radio, cioè la distanza tra un treno e l'altro come viene mantenuta in base anche alla velocità del treno? E soprattutto, qual è la difficoltà più grossa che voi dovete superare quando fate il segnalamento, sia dentro il treno, sia fuori dal treno, sia sui binari, per l'alta velocità, e nel caso specifico se c'è stata una difficoltà ulteriore a farlo in Italia? Come funziona il sistema con la tecnica del radiosegnamento? La risposta è abbastanza semplice. Ciascun treno comunica a un centro la sua posizione. Questo centro, che è un RBC, un radio block center, cioè un sistema che determina il blocco centrale via radio, conoscendo questo computer centrale la posizione di tutti i treni lungo la linea sotto la sua giurisdizione, assegna la velocità massima alla quale ciascun treno può andare e per quanto tempo, per che estensione. Gli dice: guarda che per i prossimi 12 chilometri puoi andare per 300 chilometri all'ora, e poi man mano gli aggiorna questa informazione in relazione allo stato della linea, cioè se davanti c'è un altro treno, al fatto se il treno deve andare dritto o al prossimo bivio deve uscire. Sempre con la possibilità che poi intervenga l'uomo in caso assolutamente l'uomo può intervenire solo per fermarsi. L'uomo, ecco, può prendere delle decisioni conservative, nel senso appunto che quando il centro dice al treno puoi andare a 300 km all'ora, l'uomo può decidere di andare a 200, però non può decidere di andare a 301, il sistema lo fermerebbe. Qual è la maggiore difficoltà? La maggiore difficoltà oggi non è fare questi impianti, ma dimostrarne la sicurezza. Noi per fare un impianto di questa natura possiamo spendere 100, e dico 100 in termini di anni uomo, di risorse e così via, però ne spendiamo 200 per dimostrare la sicurezza. Si deve dare una dimostrazione di sicurezza, che sostanzialmente significa immaginarsi centinaia, migliaia di situazioni possibili e far vedere che in tutte queste situazioni non si verifica mai l'evento che può portare all'incidente. E normalmente per impianti di questa complessità realtà dobbiamo dimostrare che un evento pericoloso si può verificare una volta ogni milione di ore di funzionamento. Torniamo all'economia, visto che siete quotati nell'S&P MIB. Dicevo, 17 milioni di contratto che vi siete aggiudicati in Germania con la Siemens. E tra l'altro, visto che sono 15, sono i dispositivi che voi fornirete a 15 treni, vuol dire che ogni dispositivo costa 1,2 milioni, capisco bene? Per la verità sono 15 treni, ognuno dei quali ne monta due e quindi deve dividere per 30 e quindi ogni dispositivo ne costa 600.000 euro all'incirca. Ecco. Tra l'altro avete vinto anche un contratto recentemente a Taipei, 220 milioni di euro. Diciamo, sono due tipologie di contratti diversi, il primo appunto che non ha una grande dimensione economica, però è una grande soddisfazione tecnologica, perché vendere impianti ad alta tecnologia in Germania a Siemens, ossia un nostro competitor, sì, è un chiaro riconoscimento dell'eccellenza tecnologica che noi abbiamo raggiunto nel settore segnamento. Nel caso di Taipei invece parliamo dell'altro segmento nel quale operiamo, che è quello della costruzione di impianti e sistemi complessi. Nel caso di Taipei il contratto è relativo alla costruzione di tutte le opere tecnologiche dei primi 15 chilometri della metropolitana di Taipei, della quale è prevista peraltro un'estensione di 50 chilometri. Però in tempi di crisi, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti in questi mesi, quali strade nuove state battendo? Su quali fronti state lavorando? Sia a livello italiano, penso al tram senza fili, al metro a Napoli, ma anche sul fronte internazionale. Quest'anno l'Italia, riteniamo, ci possa offrire maggiori opportunità rispetto a quelle che abbiamo conseguito l'anno scorso, perché gli investimenti decisi dal CIPE il 6 marzo ci legittimano nella speranza di continuare la nostra attività di realizzazione e costruzione di impianti metropolitani. Lei citava quello di Napoli, dove siamo concessionari della linea 6, abbiamo numerose altre realizzazioni in corso e dove nei prossimi mesi lanceremo la nostra tecnologia di avanguardia del sistema tranviario, che prevede un sistema che si alimenta di energia elettrica non attraverso il sistema usuale del filo aereo, ma attraverso un sistema innovativo che saremo lieti di presentare nei prossimi mesi, con un prototipo nella città di Napoli, che nel panorama ambientale e urbanistico italiano contiamo possa avere un notevole successo. Questa è l'intervista che abbiamo realizzato con l'amministratore delegato di Ansaldo STS, l'ingegnere Sergio De Luca, e ci, ripeto, ci fa piacere, lo facciamo spesso, portare imprese italiane che, crisi o non crisi, vanno avanti e vincono sulla base del prodotto, perché questo poi alla fine conta. Chi ci chiede aggiornamenti della borsa, vi dico che l'America sta perdendo sempre un 3,3% sul Dow Jones e il 3% sul Nasdaq, che Milano ha perso il 6,6% sull'S&P MIB e meno 5,3% sul MIBTEL, Parigi meno 4,3%, Francoforte meno 5,1%, Londra meno 3,5%. Oltre ai titoli citati, quindi il 13% di calo del Banco Popolare e il 12,5% di Unicredit, il 9,6% di Intesa e il 9,3% di Monte dei Paschi e anche di Fiat, il 9% del calo di Pirelli, Unipol meno 8,40%, Alleanza meno 8%, Mediolanum meno 6,80%, Saipem meno 6,3% come Finmeccanica, il 6,20% la Perso Atlantia, il 5,90% le CIR, il 5,80 Fondiaria, ma anche la Popolare di Milano, UbiBanca meno 5,6%, Comer Automatica e anche Eni. Il 5,5% l'hanno perso le Generali, il 5,2 sia Enel che Prismian. E va bene, si fa per dire, chiudiamo questa puntata, questo inizio settimana. Da domani la mia voce immagino sarà migliore, sulla borsa non posso fare previsioni, ma almeno una delle due andrà meglio. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.